Storie italiane. La rana e il bue. C'era una volta un gruppo di rane che vivevano in uno splendido laghetto. Erano felici di vivere insieme. Suonavano e si divertivano sempre e inoltre si aiutavano a vicenda. Tuttavia, non erano tutte uguali. Una rana era la più sottile. Poteva saltare fino alle cime più alte delle pietre. Un'altra era la più veloce. Riusciva a prendere le mosche prima che tutti gli altri potessero vederle. E poi c'era Max. Era il più grande di tutti. Ogni giorno Max aveva più di una dozzina di mosche e insetti come pasto. Altre rane erano sempre spaventate da lui a causa delle sue dimensioni. Ma Max era molto egocentrico. Si sentiva orgoglioso delle sue dimensioni e spesso si prendeva gioco delle rane più piccole. Puoi saltare fino alla pietra più alta? Ciò significa che puoi correre più velocemente degli animali più grandi che ti danno la caccia. Buon per te! Io non ho bisogno di questa abilità. Nessuno al mondo è grande come me. Quindi pensi davvero che nessuno sia grande come te, Max? Come lo sappiamo? Non ne abbiamo mai visto uno più grande. Poiché lo stagno si trovava nel cuore della foresta, molti animali non potevano raggiungerlo per bere. E così tutti pensavano che Max fosse davvero il più grande animale del pianeta. Max si faceva forte di questo pensiero. Quanto sono fortunato ad essere il più grande! Max aveva 4 bambini piccoli. Giocavano sempre vicino allo stagno con le altre rane. Ehi, andiamo a giocare oltre quell'albero! Ci sono tante grandi pietre laggiù! Oh, preferirei di no! La mamma mi ha detto di giocare su questo lato dello stagno. Oh, dai! Mio padre è la più grande di tutte le creature. Non ti preoccupare, cara amica mia. Chiameremo lui se qualcuno osa disturbarci. Non lo so. La mamma si arrabbierà con me. Non ti preoccupare. Se ti dirà qualcosa, interverrà mio padre. Allora non ti sfiderà più. Dai, vieni con noi. Va bene. Andiamo. Senza sprecare altro tempo, tutte le piccole rane corsero e saltarono sull'altro lato dello stagno, oltre il grande albero. Furono sorpresi nel vedere un altro piccolo stagno. Oh, guarda qui! C'è un altro stagno! Pensavo che ci fosse solo un laghetto in tutto il nostro grande pianeta! Oh, ma che stai dicendo? Ci sono molte cose che non abbiamo visto con i nostri occhi! Il nostro pianeta è veramente enorme! Continuerai ancora a parlare? Dai, giochiamo! Saltarono sulla pietra più alta e uno dopo l'altro si tuffarono nello stagno. Flash! All'improvviso, il terreno iniziò a tremare. Oh no! Che cosa sta succedendo qui? Perché il terreno sta tremando? Oh! Non avremmo mai dovuto lasciare il nostro stagno! Stiamo per morire! Oh, cos'è quello? I ranocchi si terrorizzarono quando videro una strana creatura camminare verso lo stagno. Era alta e aveva le dimensioni di una grossa montagna. La sua pancia si muoveva a tempo con il suo passo ed emise un verso potente. I ranocchi saltarono di corsa sulle pietre per tornare a casa, ma nella fretta la piccola rana rossa scivolò e cadde nello stagno. Oh no! Aspetta! Muoviti, ti mangerà! Che succede? Cos'è questa agitazione? E voi chi siete? Io non vi ho mai visto prima da queste parti. Ah, per favore, grande creatura, ti prego, non mi mangiare, no! Che cosa? Mangiarti? Perché mai io dovrei mangiarti, piccola creatura? Sono qui solo per bere un po' d'acqua. Oh, significa che non ci attaccherai? Oh, no! Io non mangio i piccoli ranocchi! Allora cosa mangi? Come sei diventato così grande? Mio padre mangia così tanti insetti in un giorno, eppure non è grande nemmeno la metà di te. Come mai? Il tuo papà? Intendi una rana? Una rana non potrà mai essere grande come me. Io sono nato già grande, sai? Ogni animale al mondo ha le sue dimensioni. Vuoi dire che ci sono altri animali più grandi di te? Oh, certamente! I ranocchi furono sorpresi nel scoprire l'esistenza di altri animali più grandi del bue. Rimasero seduti per ore ad ascoltare le storie delle altre creature. Presto la notte calò e dovettero lasciare il loro nuovo amico. Andiamo a casa, presto! Ho così tante cose da dire a papà! Sì, andiamo! Tutti i ranocchi si recarono direttamente da Max e raccontarono l'intera storia. Le storie erano così interessanti che tutte le rane si riunirono per ascoltarle. Oh, miei piccoli innocenti! Avete appena detto che questo signor bue è molto più grande di me? Non solo lui, papà! Ha detto che ci sono animali che sono anche più grandi di lui! E si recano in quel laghetto dietro l'albero per bere dell'acqua! Sì, sì! E ha anche detto che tu sei una rana e non potrai mai essere grande come lui! Questo è pazzesco! Come può giudicarmi e dire che lui è più grande di me? Ti ha imbrogliato, deve essersi gonfiato per far valere tutte le bugie che ha detto! È un gran bugiardo! Questo può anche essere vero, Max! Parlo sempre con gli uccelli che vengono a bere qui da noi! Ho sentito parlare di storie su altri animali anche da loro! Il nostro più grande errore, mio caro, è pensare che siamo solo noi più grandi! È il tuo più grande errore, non il mio! Io sono la più grande creatura su questo pianeta! E questo è un dato di fatto! Perché non aspettiamo fino al mattino e lo scopriremo da soli? I ranocchi hanno detto che questi enormi animali vengono qui per bere l'acqua. Ci apposteremo la mattina e finalmente scopriremo la verità. La folla era d'accordo, ma Max era molto arrabbiato. Doveva dimostrare di essere il più grande di tutti, altrimenti nessuno lo avrebbe mai più rispettato. No, dobbiamo deciderlo adesso, in questo istante. Nessuno può ingannare i miei figli. Quel signor bue pensa di riuscire a farla franca con le sue bugie. Come osa dire che non potrò mai essere grande come lui? Max allungò la schiena e si raddrizzò. Gonfiò il suo stomaco d'aria. Fu così che la sua pancia si ingrandì. Allora dimmi, figlio mio, era grande così? No, più grande, papà! Max gonfiò la sua pancia ancora una volta. Dimmi, piccolino, era grande così? No, più grande! Max, non devi farlo! Ogni animale ha un'abilità diversa! Sono sicuro che con le sue grandi dimensioni il signor bue non potrà mai saltare come noi! Sì, Max, devi fermarti, ti farei solo del male! Ma Max non voleva mollare. Non voleva dare ascolto ai consigli dei suoi amici. Aveva in mente solo la frase «grande come un bue». E questo era tutto ciò che voleva diventare. Ignorando tutti, gonfiò sempre di più il suo stomaco. Dimmi adesso, era grande così! No, papà, più grande! Max piegò la schiena e continuò a gonfiarsi sempre di più. Amore mio, era grande così? Più grande! La faccia di Max diventò blu e lui si piegò un po' di più. I suoi occhi stavano per saltare fuori. Dimmi, era grande come lo sono io adesso? Allora? Max, fermati! Ti stai facendo solo del male! Dimmi, era grande così? No, papà, più grande! La rana aveva ragione. Max si stava facendo del male, la sua schiena era tesa, gli occhi erano strabuzzati fuori e il suo stomaco era arrivato al limite. Ma lui non si arrese. Doveva dimostrare che era davvero il più grande di tutti. Respirò profondamente e si gonfiò un po' di più. Quindi era grande come me! No, papà! No, papà! No, papà! No, papà! Ormai era troppo tardi. Lo stomaco di Max scoppiò. Si era gonfiato oltre le capacità del suo corpo. I suoi figli piansero e piansero. tutti erano tristi. Max, amico mio, se solo tu ci avessi ascoltato! Siamo tutti grandi a modo nostro. Non cercate mai di diventare qualcun altro.